Oddio, non so più che cosa dirvi. Che cosa posso fare con voi due? Che altro brano vi posso dare? Vediamo se Shakespeare riesce a fare il miracolo. Provate con questa scena dalle Allegre Comari di Windsor. E che il cielo ce la mandi buona. Ford e la signora Page. Che fai, sei Ford o Page? Cosa vuoi? È uguale. Farò Ford. Io fo Page, va. Basta traccheggiare! Riconoscete o meno l'autore di questo dialogo? È niente meno che William Shakespeare. E voi, essere o non essere, ci siete proprio dentro. Essere o non essere capre. Vediamo di non fare più brutte figure, perlomeno. A proposito, sapete che della prova dell'esistenza in vita di Shakespeare ci sono solo pochi indizi, tant'è che più di uno nel mondo anglosassone, ma non solo, ritiene che Shakespeare non sia mai esistito e che quelle commedie, quelle tragedie che noi diciamo siano state scritte da Shakespeare, in realtà, secondo questi cervelloni, sarebbero state scritte da qualcun altro. Ma chi l'ha scritta essere o non essere, non lo so. E comunque insomma, ce le fa sempre difficili, Shakespeare, Dante, Manzoni, Dio bon. Davvero, fra Divine Commedia e Promessi Sposi, ora Shakespeare, ma nemmeno se dovesse andare a recitare all'Accademia... Questi cazzi. Ma nemmeno se dovesse proprio andare a recitare, se non siamo buoni. Vabbè, dai, Davide, impegniamoci... Vedrai che ce la faremo a non farci tirare i pomodori. Beh, no, allora io sono Ford e tu sei Page. Page o Page? Come devo dire, Page? No, Page. Alla Page. Alla Page. E di William Shakespeare. La francesizia. Era francese. Andiamo. Dai, Ford. Dai. Forza. Oh, signora Page, stavo proprio per venirvi a trovare. Ho bisogno di un consiglio, signora. Che succede, signora bella? Leggete questa, leggete. Diffiderò dei pancioni finché avrò occhi da distinguere un uomo dall'altro. E pensare che quell'enorme balena piena d'olio non diceva mai parolacce, lodava la modestia delle donne e se biasimava un difetto lo faceva garbatamente. Come mi vendicherò di lui? Mi pare che il miglior mezzo sia alimentare le sue speranze finché il fuoco della lussuria non l'abbia sciolto nel suo stesso grasso. Vi è mai capitato niente di simile? Lettera contro lettera, non cambia che il nome. Ford invece di Page. Consolatevi, non siete la sola ad avere misteriosamente una reputazione così cattiva. La mia lettera e la vostra sono gemelle. Scommetto che ne ha un migliaio di queste lettere, con lo spazio in bianco per il nome. E le nostre non sono neppure della prima edizione. Sapete che vi dico? È più facile trovare 20 tortore viziose che un uomo, un solo uomo, decente. Sono proprio uguali. Stessa calligrafia, stesse parole. Ma perché ci prende? Non lo so davvero. Quasi quasi comincio ad avercela con la mia onestà. Voglio studiarmi come esaminerei una donna che non conosco affatto. Perché se egli non avesse notato in me qualche inclinazione che io stessa ignoro, non m'avrebbe abbordato con tale violenza. Abbordare? State sicura che a bordo mio non ci sale di certo? Allora vendichiamoci. Diamogli un appuntamento. Fingiamo di incoraggiarlo e tiriamola per le lunghe. Con bei pretesti fino a costringerlo a impegnare i suoi cavalli all'oste della giarrettiera. Intendiamoci però, son con voi nel fargliele vedere di tutti i colori purché non ne veda di mezzo... affanculo. Intendiamoci però, sono con voi nel fargliele vedere di tutti i colori, purché non ne vada di mezzo però la nostra reputazione. Se mio marito, geloso com'è, vedesse questa lettera non la finirebbe più. Eccolo che arriva! Noi invece andiamo a consultarci su che cosa si può fare a quel grassone. Venite. Parafrasando Shakespeare, c'è del marcio a Montevarchi e questo marcio ce l'avete nel cervello, ma incredibile, un dialogo facilissimo e l'avete fatto che sembravate Totò e Peppino, andiamo! A proposito di Shakespeare, mi viene in mente un aneddoto universitario che mi raccontarono in Spagna. Praticamente Università Complutense di Madrid, il professore di letteratura inglese che si appresta a fare una lezione su Shakespeare, per cui comincia a parlare e la prima volta che dice il nome di Shakespeare lo dice qualcosa tipo Shakespeare, e sicché tutti gli studenti a ridere, guarda il professore qui che imbecille, non sa pronunciare il nome di Shakespeare, al che quando il professore si rese conto che gli studenti cominciavano a ridere disse: scusate, che c'è da ridere? Ho pronunciato il nome di Shakespeare come si pronuncerebbe in Spagna secondo le regole di pronuncia dell'Accademia della Lingua Spagnola. Siccome state ridendo e siccome mi prendete in giro, da ora la conferenza la faccio in inglese e non capì nessuno una parola. Vabbè, dai, però anche lui se l'è un po' cercata, si sa come sono gli studenti nei confronti dei professori. Poi se toccava a noi, conferenza in inglese o in italiano, ci sarebbe capito nulla uguale se si parlava di Shakespeare. Tanto voglio dire, nella lingua tua o in un'altra lingua, se uno non ci capisce, non ci capisce. Va bene ragazzi, cerchiamo di salvare la serata. Vi ho portato dei libri di spessore, direi, stasera. In parte per il volume, perché uno è un libro di ricette di mia nonna e se lo capiva lei, pace all'anima sua, probabilmente sarete in grado di capirlo voi. Ma se il libro si rivelasse troppo ostico, ne ho portato un altro. Il mio nipotino di 2 anni e mezzo è un appassionato della biblioteca e effettivamente c'ha occhio nello scegliere i libri. Almeno quello sarete in grado di recitarlo. Ma chi lo sa, forse i piatti che leggeremo nel libro di cucina siamo in grado di mangiarli. Poi tra l'altro io di biblioteca non sono appassionato, però insomma di tavoli e di ristoranti sì, per cui magari forse la scelta è stata giusta. Dai, allora si parte con la ricetta di cucina? Vai. Allora, il libro è Pesce e verdure della Fabbri Editori. Non c'è autore e il libro è uscito nel 2005. Quindi insomma ancora cracco, quella pizzaccia non se l'era inventata. Sì, ma ormai il pesce sarà avariato dal 2005. Insalata con radicchio di chioggia e formaggio di capra. Ingredienti per 4 persone. Un cespo di radicchio di chioggia, solo il cuore. 4 cipolle rosse di Tropea. 200 g di fagiolini sottili. 200 g di formaggio di capra fresco. Un cucchiaio di uvetta. 20 g di coriandolo essiccato. Un cucchiaio di zucchero di canna. 3 cucchiai di aceto di vino rosso. 5 cucchiai di olio extravergine di oliva. Sale. Pepe nero, un cucchiaio di pepe rosa in grani, un cucchiaio di pepe verde in grani. Sbucciate le cipolle e tagliatele a spicchi. Scaldate l'olio extravergine di oliva in una padella. Ponetevi gli spicchi di cipolla e lasciateli cuocere a fuoco basso. 4 minuti scappati. Vai avanti! La cipolla dovrebbe far piangere poi. Scaldate l'olio extravergine di oliva in una padella, ponetevi gli spicchi di cipolla e lasciateli cuocere a fuoco basso per 4 minuti, mescolando spesso. Salate, versate l'aceto, coprite e cuocete per altri 6-8 minuti. Prelevate le cipolle e tenetele da parte. Unite al fondo di cottura l'uvetta e cospargetela con lo zucchero di canna e abbondante pepe nero macinato al momento. Mescolate, attendete qualche minuto che l'uvetta si gonfi e spegnete. Lavate e spuntate i fagiolini, tagliateli in due o tre pezzi e lessateli in acqua salata già a bollore. Scolateli dopo 5 minuti e raffreddateli sotto l'acqua corrente. Lavate le foglie più tenere del radicchio, tamponatele con carta assorbente da cucina e tagliatele a metà nel senso della lunghezza. Adagiatele nei piatti individuali e disponete su di esse gli spicchi di cipolla e i fagiolini. Con una forchetta lavorate il formaggio di capra con il coriandolo essiccato, amalgamando con cura. Formate delle piccole palline e passatele nei grani di pepe rosa e verde precedentemente schiacciati. Aggiungete le palline di formaggio di capra alle verdure, irroratele con la salsina preparata con il fondo di cottura delle cipolle e l'uvetta. Aggiungete le palline di formaggio di capra alle verdure, irroratele con la salsina preparata con il fondo di cottura delle cipolle e l'uvetta e servite. Insomma, tutto questo bordello per fare un'insalata. Ascolta Fumino, a me più che l'acquolina in bocca mi è venuta la diarrea. Ascolta te, Carax, vediamo di passare al libro per bambini. No, io voglio leggere di pesce, via, leggiamo bambini. Via, leggi il pesce. Leggi il pesce, forza. Lo devo trovare, pesce. Però, Sentiamo, chissà che... Ma che... Mamma mia, chissà che ricette ora si trova questo. Non è nemmeno venerdì. L'ho trovata, la triglia alla livornese, boia. Allora, triglia alla livornese, ingredienti per 4 persone, 8 piccole triglie di scoglio, 500 g di pomodori da sugo, 3 spicchi di aglio, una manciata di prezzemolo, una costola di sedano, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Fate un battutino con l'aglio, prezzemolo e un pezzo di sedano. Mettetelo al fuoco con olio a buona mistura, sì, la fava misura. Io tra l'altro non mi cucinavo nemmeno un piatto di pasta. Allora, fate un battutino con aglio, prezzemolo e un pezzo di sedano. Mettetelo al fuoco con olio a buona misura. Quando l'aglio avrà preso colore, unitevi i pomodori a pezzi e condite con sale e pepe. Lasciate che i pomodori cuociano bene. Rimestateli spesso e passatene il sugo al setaccio. Collocatevi le triglie e cuocetele. Se sono... sembra scritto tipo da un carabiniere. Almeno non rimestateli. Se sono piccole non ci sarà bisogno di voltarle. Se invece il vaso o pentola dove sono state bollite o cotte distese non è sufficientemente adatto, prelevatele una alla volta per non romperle e collocatele in un vassoio. Poco prima di toglierle dal fuoco, fioritele leggermente con il prezzemolo tritato e poi servite. Questo l'ho aggiunto alla fine io perché... No, se cucino io, auguri. La tua lettura è avariata come un pesce puzzolente rimasto dei mesi al sole dei tropici. Passiamo al libro per bambini. Come si deve fare? Allora, il libro è Davide Calì e Benjamin Shaud sono arrivato in ritardo perché Della Rizzoli. Allora, io farò la maestra e voi vi dividerete il librino come fanno i bravi bambini. Allora fatemi fare molte le pagine. Indivia, che cazzo è? Un'erba. Ma state, c'è la metà a fare, non ne è messo. Unite radicchio, indivia e pomodoro alla cipolla, salate e lasciate cuocere. Le cape sante. Le cape sante sul letto da asparagi. Foglie di cavolo cinesi. Buoni e stiosi di Nessi, però. Tartufi di mare gratinati alle verdure dell'orto. Ma queste foto lo fai mangiare gli aghi. Dice ma va a culo. Badà, le paste di Gragnano al crudo di mare con salse mediterranee, dai roba. Allora, Claudio fino alla casetta di Hansel e Gretel. E io faccio la maestra. E la maestra mi tu fa? Comincio la maestra. Sentiamo, perché sei in ritardo stamattina? Beh, è una lunga storia. Innanzitutto, le formiche giganti hanno mangiato la mia colazione. Così sono andata a chiedere qualcosa ai vicini. Ma quello non era esattamente un buon momento. Giro di boa per Claudio Baglioni e la sua ciurma che per la terza serata del festival hanno puntato tutto sull'ironia. Un'ironia a tratti di cattivo gusto come non hanno mancato di sottolineare numerosi spettatori. Ci riferiamo a due momenti ben precisi della lunga diretta dall'Ariston. Il primo è stato il collegamento con Emma D'Aquino del TG1 ad una manciata di minuti da mezzanotte quando è partita la sigla dell'edizione straordinaria per la finta inchiesta sul passerotto scomparso del celeberrimo brano di Baglioni. In men che non si dica chi si stava rilassando sul divano è balzato di colpo in piedi per lo spavento provato. Qualcuno ha scritto: Dio raga, mi è preso un infarto, ho temuto la terza guerra mondiale. Poi, andando a scuola, sono stato attaccato prima da una gang di ninja malvagi e subito dopo da una banda di terribili majorette. Poi, dal nulla, è spuntato un enorme gorilla che ha scambiato il bus della scuola per una banana. Così sono saltato sul mio skate per non fare tardi, ma sono stato rapito dagli uomini talpa che vivono sottoterra. Quindi è per questo che sei arrivato in ritardo? No, anzi, sono scappato facilmente. Ma dopo, per qualche strano motivo, mi sono rimpicciolito. E poi, subito, sono diventato gigantesco. Per arrivare a scuola mi sarebbero bastati 3 passi. Ma, al secondo, sono tornato normale e poi sono precipitato in una palude dove ho dovuto vedermela con uno strano blob. Ovviamente mi sono sbarazzato del blob, ma un elefante mi ha acchiappato con la sua proboscide. La parata degli elefanti andava nella giusta direzione, quindi sarei potuto arrivare a scuola in tempo. Poi, però, abbiamo avuto un piccolo imprevisto con un topo. Subito dopo ho incontrato una bambina che mi ha chiesto di accompagnarla a casa di sua nonna. Ma, visto che ancora non avevo fatto colazione, ci siamo fermati per uno spuntino. Quindi è per questo che sei arrivato in ritardo? No, in effetti non ero lontano da scuola, solo che non ho potuto fare a meno di seguire un tizio con un flauto magico che andava nella direzione opposta. Allora ho pensato di prendere una scorciatoia, ma devo aver sbagliato qualcosa perché sono finito in una ragnatela gigante. Fortunatamente avevo con me la mia fedele cintura multiuso. Ero di nuovo sulla buona strada quando ho incontrato Bigfoot che mi ha chiesto di scattargli una foto. Una volta fatta a lui ne ha voluta però anche una lo Yeti. E finalmente poi fuori dal bosco mi sono trovato circondato da un gregge di pecore e da un mucchio di anatre. Mi sembrava gentile dare una mano a separarle. A questo punto, per via della mia nota abilità con gli scacchi, il presidente mi ha chiamato per scongiurare un'invasione aliena. Poi, per ringraziarmi, mi ha lasciato fare un giro sul suo jet privato. Quindi è per questo che sei arrivato in ritardo? No, ero ancora in tempo per arrivare a scuola in orario, ma avevo dimenticato lo zaino. Quindi sono tornato a casa a prenderlo, poi ho usato la macchina del tempo di mio zio per arrivare a scuola puntuale, ma qualcosa deve essere andato storto. Ed è questo il motivo per cui sono arrivato in ritardo. Davvero? E pensi sul serio che io possa credere a tutta questa storia? Però a me se ne dica anche... Vuoi burlare? Ragazzi, secondo me voi in ritardo ci siete arrivati davvero, anzi, a scuola non ci siete arrivati mai!